carissimi amici di Archeologia Giuseppica. Sto fa un casino. Fermi tutti, buoni, ragazzi. Sto fa un casino che la metà basta perché far partire due stream contemporaneamente, attivare il microfono in un punto, fare quell'altro, spingere quattro pulsanti. Ho fatto casino, ragazzi. Però. Prendiamo l'obiettore e facciamogli fare regista. Ma sì, no, ma in realtà, guarda, devo dire che ultimamente mi sono molto, molto addestrato. Però alla fine succede che oggi ho fatto un po' di casino. Poi mi scordo sempre che questa meravigliosa sigla che abbiamo c'ha la coda finale. Me lo dimentico e quindi ci parlo sopra. Perché insomma, tutto sommato, l'unico incidente che era successo in precedenza è che su Spreaker non ho aperto il canale. Allora, siamo in contemporanea su Spreaker e siamo su www.rantemeradio.it. Quindi siamo il doppio stream con la nostra web radio. È insomma un'abitudine che prenderemo durante insomma prossimo futuro, tranne alcune trasmissioni tipo Runtime by Night che diventeranno esclusive della web radio, quindi se volete ascoltare dovrete stare soltanto su www.rantemeradio.it. Detto questo, sto interrompendo bruscamente una bellissima replica di archeologia informatica, anzi archeologia videoludica. Ecco perché mi ero confuso dicendo archeologia videoludica, roba genere, che stavo ascoltando in sottofondo anche quella cosa lì. Però ragazzi, bisogna anche addestrarci a fare i conti sulle trasmissioni che devono finire quando ne devono iniziare delle altre. Succede? Chi se ne frega? Michele De Paola! Salve a tutti! Mappa che musica! Cioè, se ci fosse stata una scalinata sarei scesa e sarei rotolata giù con le scale, ovviamente. Esatto. Ne devo trovare un'altra bella come questa, però un po' più lenta, perché chiaramente ci mette 30 anni a finire, insomma. Walter Sbano! Ragazzi, voi non so se vi siete resi conto, questa sera abbiamo iniziato la puntata con qualcosa che praticamente siamo arrivati al livello di Christopher Nolan. C'è stato un inception nell'abbrivio iniziale di OGM, perché praticamente subito prima della sigla iniziale Girasole di fatto si è salutata da sola. Esatto. No. Ciao a tutti, sono Olivia da Formello, volevo mandare un saluto speciale a Runtime Radio e tutti i suoi ascoltatori. Bacio, ciao. Lei saluta gli ascoltatori, capito? Quindi salutiamo Girasole anche se l'ha già fatto da sola. Esatto, insomma. Infatti, sicuramente gli farà piacere sapere che è stata... Non so se ci ascolterà stasera, perché... C'ha da fa. È impegnata in una cosa molto speciale che poi vi racconterà lei dopo che l'avrà finita. Ok, ah, perché è questa sera? No, ma sta facendo le prove. C'è una strana aria di mobilitazione. C'è una strana aria che non c'è nessuno. Ci sono tutti i dati alla macchia. Il primo giorno di zona gialla sono tutti spariti. Sì, diciamo che insomma sono menati tutti al piccio sabato. Poi ci arriviamo. Carmine Puccio Console. Come stiamo? Stiamo con la scarpa e una ciabatta, diceva quello famoso. Non so se lo conosco. Un grande classico. Esatto. Basta. Guarda, noi nel nostro caso capaci basta che stiamo con una scarpa e una ciabatta, perché Goscazia che ogni tanto va in giro con scarpe varie. Sì, ieri ci ha provato. Allora, noi abbiamo... Ma ci può anche seppellirle? No, lei fa il gesto, quando vedi che fa il gesto di scavare, la tiri fuori dalla finestra per fare la cacca. La lanci fuori. Esatto. Vuol dire che sta per fare. Devo dire che per essere, quant'è, 2 settimane che sta qua? Allora, Scozia sta qua da 2 settimane e mezzo. 2 settimane e mezzo, per un cane di 3 mesi, 3 mesi e qualcosa in più, già caga e piscia fuori, veramente bravo. Certo, bravo. Non sempre, ogni tanto gli scappa. Ma quella è colpa tua, perché tu non ti alzi in quel minuto esatto in cui lei c'ha proprio... Non ce la fa proprio. Io ho aspettato fino adesso. Succede, lo fanno. Però vabbè, non parliamo di cani e cacche, perché ne abbiamo parlato per tutta la settimana. E poi non c'è zio Mischi, quindi non possiamo parlare di cacche. C'è zio Mischi, che però diamo il benvenuto a zio Mischi nel gruppo dirette Telegram. No, dirette di Runtime, ragazzi. Diretta Runtime, che sì, è il gruppo Telegram ufficiale che si può utilizzare per partecipare alle dirette, e a quanto pare non solo, perché abbiamo visto che poi viene utilizzato sistematicamente, quindi ci fa piacere, perché insomma si è già creato un bel gruppetto, una bella attività, e ci ha raggiunto anche zio Mischi, che praticamente ci ha detto di aver installato Telegram apposta per noi. Esatto, che poi tra l'altro, ecco, diciamo che in effetti anche un po', insomma, ragionando, ha fatto magari ragionare pure Sbano, diciamo che quel gruppo verrà utilizzato comunque anche per le comunicazioni, solo esclusivamente per le dirette. Non spammeremo tutto, perché sennò alla fine diventa come tutti gli altri gruppi e in realtà quello è per le dirette. Se non ascoltate tramite Spreaker, dove potete fare chiaramente i vostri, messaggini come state facendo adesso, insomma, tutti quanti, con la fila, se ascoltate tramite www.runtimeradio.it e potete tranquillamente usare quella, quella chat che è diretta Runtime Radio, quindi insomma vabbè, ce la cercate, poi vedrete che la trovate. Poi ci saranno altre sorprese successivamente, dove è un momento di transizione, quindi non ci stiamo a capire niente noi, figuratevi voi, insomma. Detto questo, Walter, oggi è una giornata fiacca, perché oggi io so che i carabinieri hanno fatto tipo hanno fatto la metà del debito pubblico dello Stato in multe, tipo. Ma guarda, ma secondo me no. Non tanto oggi quanto quello che è successo in questo fine settimana a pre-zona gialla, perché veramente se ne è sentita di ogni, a cominciare dall'ormai appuntamento mensile di Semenamo al Pincio, perché mi pare di capire che almeno una volta al mese, un sabato. Noi il sabato pomeriggio, quelli della mia generazione, quelli più scafati andavano a ballare al Piper a Via Tagliamento, quelli meno scafati come potevo essere io magari ci andavamo a fare una passeggiata a Via del Corso, Piazza del Popolo, Piazza del Flaminio, eccetera eccetera. Se poi al Pincio ci andavi a Pomicià, dai, cioè, se andavi al Pincio ci portavi la fidanzatina, ci andavi a Pomicià, al Pincio mica ci andavi a fare scazzettone. La mia adolescenza è stata nerd, ma ne parliamo venerdì, insomma. Diciamo che adesso va molto più di moda incontrarsi e dassere, da quando c'è il lockdown, poi in realtà, perché non è che prima succedesse. Vabbè, ma la gente si deve sfogare, Walter, cioè in qualche modo. Ho capito, ma sfogatevi come i bonobo. Hanno chiuso le palestre. Fatte due pippe, insomma, ragazzi, cioè quando è così. Quello aiuta. E forse non basta. Abbassa la tensione. Vabbè, perché sono ragazzini. D'altronde quello che leggo, ci sono stati personaggi di varie età, anche dei minori, però se sono menate anche persone un po' più grandi, e che magari non inizia con quella con quell'intenzione premeditata, però stai là, il tuo capannello di persone, un altro capannello di persone accanto al tuo, allora scatta la psicosi, ma voi vi siete assembrati? E beh, perché voi no? Scatta la tensione, il momento di nevrosi, a un certo punto parte il chicchero, come si dice a Milano Nord, già che ci so se ne danno. Mi pare di aver capito che più o meno la situazione sia questa qui, poi non lo so, non mi hanno avvisato, se no ci andavo pure io. Diciamo che le cose tipo i gruppi che se le promettono poi se le danno ci sono sempre state, il problema che oggi tutto naviga per dei canali che noi non conosciamo, cioè nel senso l'idea è che queste non siano persone che vivono per promettersele e dassere, non è che stiamo parlando, come dire, delle bande di quartiere, stiamo parlando di gente che magari non c'ha neanche nessun legame particolare. Se qualcuno lancia l'idea su un gruppo WhatsApp, su un gruppo Telegram, è per quello che dicevo, sì, che andiamo e meniamo, no, ma ci frega, è proprio un club, però di gruppo e con gente che parla di quello che fa. Ma io infatti era proprio questo che dicevo, cioè nel senso che alla fine questi navigano per canali che noi non conosciamo, tra virgolette, nel senso li conosciamo ma non frequentandoli, chiaramente anche per questioni cronologiche, diciamo che certe dinamiche, certe dimensioni le conosciamo più poco, no? Diciamo, ci può anche sta come cosa che alla fine diventa una cosa goliardica e poi dalla cosa goliardica sfugge di mano, poi alla fine diventa, come posso dire, un must, no? Come la bambina che si soffoca con la cinta perché è una challenge. Quella è una cosa ancora più brutta, è difficile, come dire, poi passare dall'argomento semi-ironico delle botte al piccio a queste challenge bruttissime, che poi in realtà diciamo che io ricordo che questo tipo di sfide assurde ci sono sempre state. Prima viaggiavano su altri canali, avevano meno eco e i casi erano molti meno perché appunto c'era meno effetto di passaparola. Però ste stronzate si facevano pure alle ma sì, all'epoca sì. Nostra. Vabbè, però la dimensione del modo in cui certe cose viaggiavano, diciamo, era diversa, no? Ma era inevitabilmente diversa. Cioè, certi miti, certe leggende, certe cose che poi alla fine comunque in qualche maniera si gonfiavano col passare del passaparola sono sempre state senza dubbio. E non salutiamo Rizzard in chat intanto. Però è chiaro che oggi la cosa sfugge molto di controllo, soprattutto perché è cresciuta esponenzialmente la capacità di, come posso dire, far diffondere, esatto, far viaggiare queste informazioni, queste situazioni, queste challenge, rispetto al genitore che dovrebbe contenere la cosa e non è in grado perché non c'ha gli strumenti, perché non è stato dietro, cioè nel senso oramai, ma io stesso farei fatica, no? Infatti io con Michela tante volte abbiamo fatto il ragionamento, è vero che la cosa della bambina è più grave e sicuramente non bisognerebbe scherzarci sopra e non lo facciamo, è vero però dall'altra parte che, cioè nel senso purtroppo alla fine non, molti genitori secondo me non c'hanno gli strumenti, o in una società come questa dove tu prendi il ragazzino, lo metti davanti alla televisione, prendi il ragazzino, lo metti davanti a Facebook, è la stessa cosa, cioè, nel senso... Il problema nasce proprio da lì. In questi giorni si è tentato di trovare soluzioni strumentali del tipo bisogna che le piattaforme si accertino dell'età degli iscritti, allora usiamo lo speed, ma allora di qua e di là. Secondo me in questo tipo di frangenti prendersela col Facebook di turno serve a poco, è solo un tentativo di scaricabarile, perché prima ancora ci dovrebbe essere, e non c'è, la consapevolezza dello strumento e il controllo dello strumento da parte del genitore. Il genitore che oggi mette in mano a un figlio di 8, 10, 12 anni uno smartphone è un genitore che non ha la più pallida idea dell'abominio che sta facendo. Prima di tutto perché non c'è proprio la conoscenza, la consapevolezza di quali strumenti pericolosi metti nelle mani di un bambino, perché si tratta di bambini, neanche di ragazzi a quell'età. E poi perché se il motivo, se il pretesto fosse quello anche ragionevole, anche giustificabile di voler rimanere per motivi di sicurezza in contatto, beh, in tasca a tuo figlio di pochi anni gli puoi mettere un telefono cellulare tradizionale con cui parlare al telefono con te, con voi, poter chiamare i nonni, i cuginetti, quello che sia, fine. Lo smartphone, che è tutt'altro tipo di oggetto, che ha tutta che permette l'accesso a tutta una serie di zone grigie, zone nere della rete, non lo puoi mettere in mano a un bambino. Il problema è che questi genitori non lo sanno. Beh, ma il discorso ritorna un po'. Non lo so se non lo sanno, perché in realtà io... Quelli che lo sanno si comportano magari in maniera un po' più attenta. Se lo sai e lo fai comunque, sei folle. C'è una via di mezzo quando poi alla fine questi genitori lo fanno. Perché nei casi nostri, anche se ormai sono passati molti anni, quindi alla fine comunque parliamo degli esordi di Facebook, quando Matteo voleva i soldi di cellulare, Facebook, cazzo, cioè sì, era il 2013-2012, vabbè, comunque è passato un po' di tempo. Comunque c'erano diversi casi di ragazzi che c'avevano il telefono, o comunque che c'avevano il tutti in classe sua ce l'avevano tutti il profilo su Facebook, e c'erano diverse situazioni. C'era il genitore, che ne so, che litigava con l'altro genitore dopo la separazione, quindi chi voleva sembrare meglio dell'altro, la madre che praticamente pensava ad essere la sorella della figlia, cioè veramente ci stanno tantissime sfaccettature su questo, sì, su questo tema. È abbastanza vero che se tutto questo si riassume sul fatto che comunque la politica si interroga sul come andare a rompere i coglioni a uno strumento, piuttosto che continuare a dire: signori, prendetevi cura delle cose che ci avete, o dei figli che ci avete, perché tu puoi fare tutti gli esempi che te pare. Comunque noi, anche litigandoci, facendo che piagneva, che bestemmiava, che si incazzava, roba del genere, comunque Matteo fino a 14 anni non c'ha avuto Facebook. E questo era... Sì, ma Matteo ci ha fatto una testa come un pallone, che a un certo punto ci dovremmo... Però è quello il vero problema. Il problema sta lì, che i genitori noi... non gli va. Allora, però non li fai i figli se non te va. Cioè, è tutto là il problema. Diciamo che c'è sempre stato questo dualismo tra genitore e capriccio. Noi facevamo i capricci su altre cose. Ma sì, certo. Sarebbe meno pericolose, ma poteva essere come potevano essere i pattini da bambino, come il motorino a 14 anni, per dire, che comunque hanno i loro profili di pericolosità, e che in questo caso il profilo di pericolosità è molto più complesso e sfaccettato. Poi se andiamo ad indagare veramente, scopriremmo anche che un minorenne, proprio per motivi di legge, per regolamento, non potrebbe avere tanti di quei gli strumenti che gli mettiamo in mano. Non si può intestare una SIM card. Però scusa Walter, genitore. Ma quanti non ragazzi non si può creare neanche un indirizzo di posta elettronica, perché se andate a leggere il contratto che si stipula tra il fornitore del servizio di posta elettronica, che sia Google, che sia Microsoft, che sia quello che volete, e l'utente finale, c'è scritta l'età minima per poter creare un indirizzo di posta. Poi è chiaro che loro non hanno la possibilità di controllare, anche perché ci mancherebbe pure che ti chiedono il documento per registrarti ogni singolo. Beh, sarebbe anche peggio, sarebbe meglio nel no, senso sarebbe che... peggio ah, Non sarebbe meglio, proprio sarebbe perché peggio. Sono tutti concetti che servono a togliere dalle castagne dal fuoco dal genitore. Certi servizi sono nati per essere in una certa forma riservati, in una certa forma anonimi, e comunque oggi in cui siamo nella società della compravendita dei dati personali, se mi cominci a chiedere il documento per questo e quell'altro servizio, io non te do una beata mazza. Il problema è, c'è scritto che devi essere maggiorenne per avere quel dato servizio. Perché chi si deve accertare che tu da minorenne non sia da solo davanti al computer non se ne accerta? Io continuo a suonare solo su questo tasto, perché secondo me è quello che risolve la situazione. Vabbè, io infatti penso gravemente ai genitori che sono disattenti, e vedi come la cultura di internet si comincia a formare anche in loro. Vabbè, questo purtroppo è un po' un discorso che si espande su tante altre sì, cose, perché ci sono anche diverse realtà che purtroppo noi come facciamo cioè nel senso avere una società che si prende la responsabilità di diciamo far rispettare determinate regole quando qui ognuno è abituato a fare come gli pare, perché abbiamo cresciuto i nostri figli col fatto che non rispettano i genitori e i professori di scuola, figurate quanto possano rispettare le istituzioni, no? Però in generale diciamo che per ignoranza, facciamo così proprio per riassumerla, per ignoranza la gente accorpa TikTok al televisore, cioè nel senso metti ragazzino davanti al televisore così non mi rompi i coglioni, metti il ragazzino davanti a TikTok così non mi rompi i coglioni. Però siccome che non esiste nessun motivo legale per cui tu sei obbligato a sposarti e fare figli, allora a quel punto, nel momento in cui decidi, anche se lo so che non lo decidete con coscienza, perché lo decidete perché lo dovete fare, perché questo è forse il vero grosso problema della società di oggi, è che oggi il ragazzo e la ragazza si devono sposare e devono far figlio, e non si sa per quale ragione, però nel momento in cui l'hai fatto prenditene cura, che è la cosa più importante, perché il giorno in cui poi succede qualcosa di inevitabile vivrai comunque col dubbio di non aver fatto abbastanza per proteggere il tuo figlio, che penso sia la cosa, no Puccio? Vediamo un attimo. Sì, no, vabbè, io avendone i due. Tu ce n'hai due, quindi insomma sei anche un genitore tecnologico poi, quindi. Devo dire, da un punto di vista informatico è particolarmente attiva, perché devo dire Josephine smanetta allegramente con cellulari, tablet, vabbè, c'ha io ricordo i genitori che sono in grado di mettere un freno e di controllare la situazione, c'è cioè una differenza. Sì, è anche vero che è riuscita per esempio a spendermi 40 euro dentro Roblox perché me l'ho scordato di togliere il login automatico della carta di credito di Google, però là è stata colpa mia e i soldi li abbiamo recuperati, perché cioè ho ritirato entro un'ora l'acquisto. Ti aveva comprato una Mercedes che gestisce le microtransazioni. Però voglio dire, cioè, per carità, sbaglio io che ci sto attento, non oso immaginare chi non c'ha manco contezza di che gira su un cellulare. Vi devo dire, io in realtà però l'unica, cioè ovviamente non c'ho Facebook, non c'ho i social, non c'ho niente, c'ha YouTube e YouTube Kids, tra l'altro vede, cioè anche se non glielo limitassimo YouTube, alla fine si va a vedere praticamente quasi sempre gli stessi tre canali, ovvero i pigiamini che ballano, che, oddio, sì, sì. Lo Spider-Man che balla. Pietro non c'ha ancora molta manualità, ma vorrei vedere, cioè c'ha 13 mesi. Figlia piccola, figlia grande è comunque ancora in età prescolare, o mi sbaglio? Anni, sì, quindi sì, comunque sì, ancora un po' presto per la fase Facebook, diciamo, ecco. Sì, perché beh, per quanto, oddio, di genitori che hanno creato i profili per i figli, ne ho conosciuti. Vabbè, ma lì entriamo in un argomento ancora peggiore. Guarda, proprio oggi mi stavo riascoltando, perché era in onda su www.rantemeredio.it, La prima puntata di Ricette Apocalittiche, no? Che abbiamo fatto proprio con Clelia, no? Dove Michele e Clelia stavano parlando del fatto che comunque a Clelia a volte per poter fare le videoricette, insomma, si faceva aiutare da Josephine Zelda, perché praticamente era l'unico modo per poterle fare e allo stesso tempo stare anche con lei, no? Nel senso di gestire la questione. Però dice, alla fine lei erano delle manine, cioè le mani che facevano cose, e lei giustamente si posta sempre il problema, no? Nel senso, tutti questi genitori che fanno il profilo Instagram, che fanno il profilo Facebook, che praticamente alla fine li accorpi quasi al cane e al gatto, poi fondamentalmente, perché gli fai lo stesso profilo. Ma che pare... cos'è? Cioè, se giri un attimo su YouTube Kids, che diciamo è un terreno di gioco un po' diverso da quello che conosciamo noi. Non lo conosco. Io guardando un po' quello che guarda mia figlia, ma anche quello che ogni tanto guardava mia moglie con la bambina, ci sono un sacco di canali gestiti da genitori più figli, tipo ce ne sono tantissimi che fanno gli unboxing tipo dei collezionabili, no? I gashapon, mo non so in italiano come cazzo abbiamo tradotto. C'è una traduzione, comunque sono quei gadget che escono dalle sfere delle macchinette da 1-2 euro nei negozi. C'è un caso particolare che ricordava mia moglie, di un canale anche carino gestito da madre e figlia, dove la figlia a un certo punto si era tremendamente rotta i coglioni di fare questa cosa con la mamma, e la mamma ha continuato da sola, che è una cosa tra l'altro di una tristezza quasi. Questo però è indicativo, ti dice molto. Moltissimo. Di quanto c'erano tutte quelle bambine che nella vita hanno dovuto fare le sfilate, hanno dovuto fare le fotografie, hanno dovuto fare le modelle, hanno dovuto fare le attrici, hanno dovuto fare sto minchia e sto cazzo, perché comunque c'era la madre dietro che voleva quello, cioè perché poi se Sunshine no, perché questo fenomeno c'era anche nei decenni passati con le mamme che cercano di portare le figlie alla ribalta in televisione, o magari i figli maschi nel calcio, un po' il concetto poi estremizzato del voler essere un calciatore, una velina negli anni 90. Prima quello del calciatore anche negli anni 80 c'erano i papà che cercavano di far fare i calciatori ai figli. Sono d'accordo, però quello del calciatore, secondo me, è una dimensione diversa. Cioè, il calciatore, il padre rifletteva nel figlio un suo desiderio che magari non era un po' andato a buon fine. E questo, però, alla fine, ma pure le mamme, fidati. Però lì, appunto, le mamme, secondo me, la cosa è 10 volte di più, perché a un certo punto diventa maniacale. Io e Michela, era con te forse, non mi ricordo. Era complesso poi da stasera che volevamo essere un po' più più semplice, esatto. Però io mi ricordo che c'è stava una trasmissione che parlava di queste bambine star, no? Che ovviamente quelle che vedevamo. Che lo vedevamo insieme, che c'era quella ragazzina che alla fine aveva sviluppato una doppia personalità. Perché chiaramente lei era il personaggio fittizio, quindi la figura pubblica che era stata creata, e poi era lei nella sua vita normale. Ma chiaramente a 6 anni, a 7 anni, non era abbastanza in gamba da poter capire. Cioè, che a scindere le due cose, quindi le ha proprio divise dentro di sé, capito? Creandogli un problema poi. Però ecco, vedevi proprio questa ossessione delle madri che le truccano, le vestono come loro. Cioè, questo utilizzava praticamente una sorta di avatar di quello che avresti voluto essere te, strappandogli la vita a sti ragazzini, perché gli cioè, poi porto l'esempio più stupido, che è quello che mi fa sempre ride, anche se non c'è un cazzo da ride, perché veramente non c'è un cazzo da ride, quello di Giuseppe Junior, là, il ragazzino napoletano, con sti cazzo dei neomelodici dei 12 anni, 10 anni, che gli fanno fare queste canzoni de merda, con i video de merda, dove parlano de cose di cui non sanno neanche di che cosa stanno a parlare, però che fenomeno, quanto siamo bravi, capito? Beh, lì c'è pure una mancanza culturale. Vabbè, vi do la mazzata definitiva, che tra l'altro c'è stata una serie di Netflix che tipo è uscita ed è stata accusata di criptopedofilia. In realtà parlava di quel fenomeno lì in America, cioè del circuito dei concorsi di bellezza per preadolescenti. Esatto. Cioè, non è terribile quello che vedi, perché in realtà l'hai visto in 100 film. è terribile quello che ti racconta, cioè il fatto che queste vengono prese e spinte a fare quel tipo di carriera. Sì, sì, ma è la stessa cosa che vedemmo io e Michela un sacco di tempo fa su Sky, non mi ricordo, era comunque un documentario che raccontava il backstage di questo universo, capito? E alla fine ovviamente raccontavano la storia di queste ragazzine, di queste madri, no? Che ovviamente non si rendevano conto, cioè completamente allucinate, no? E vabbè, dai, è una cosa ghiacciante. Comunque, ma perché come siamo arrivati a questo? Con un chirurgo plastico di una certa fama della zona, che più di una volta ci ha detto: voi non avete idea di quanti interventi speculari ho dovuto fare mamma figlia. Il dottor Victor von Frankenstein. Io c'ho una cosa da raccontare che poi a volte io prendo in giro mio fratello, perché in pratica mio fratello da ragazzino, poco gli ommoni partiti a mille, si è innamorato di sta ragazza che comunque che veniva da sta famiglia, cioè, di origini, grosse. No, adesso ci arrivo, di origini partenopee, non lo so, il seno era normale quando ha conosciuto le... Vabbè, insomma, erano una marea dentro a sta casa e erano tutte donne, e lui proprio gli è partito ormone, erano tutte belle donne, vabbè. Praticamente questa ragazza, adesso ovviamente non, poi la storia è finita presto, è finita in televisione su programmi tipo quelli di Barbara D'Urso, perché praticamente ha raccontato che lei per i suoi 18 anni la mamma gli ha regalato le tette nuove, e quindi queste tette, guarda, giganti, che un fenomeno da baraccone, ma proprio è stata trattata veramente come uno di quei fenomeni da baraccone che adesso c'è pieno la televisione, perché ma... la televisione ne prende un esempio e lo ridicolizza, quando in realtà voglio dire ce ne stanno a centinaia di situazioni del genere. Io una volta, lei era proprio stupida, cioè io e mio fratello, ogni tanto io dico, ma d'altronde, io una volta dentro McDonald's ho visto madre e figlia vestite identiche, truccate identiche, con le stesse tette, cioè è una cosa, cioè io penso che lì non è... posso capire che la madre è deviata e c'è poi un problema, io lo posso pure capire, cioè non è che, voglio dire, non è che siamo tutti perfetti, anzi, ma chi te sta intorno? Cioè non si pone il problema che c'è qualcosa che non va, perché non ti dicono niente. I contesti sono tarati su quel livello culturale molto basso, vogliamo dire così, e quindi non c'è la percezione di qualcosa di anomalo, ma di una forma di normalità. Ne ho visti tanti di contesti simili a quello che descrivi, magari anche non così estremi, però insomma mi rendo conto che in quel tipo di ambiente, in quel tipo di ambito, cose per cui noi ci poniamo delle domande anche turbati, per loro sono normalissime. È così, la loro routine, la loro logica delle cose è assolutamente quella, non c'è niente di strano. Comunque questa cosa delle tette, il regalo delle tette a 16-17 anni, diciamo che era un periodo che era esplosa proprio, c'era la super moda di questa cosa. Lei è diventata famosa in televisione. Ma che era l'epoca di Drive-In che andavano di... No, questa è più recente. No, vabbè, cioè, parlo degli anni 90. È concomitante ai video del prediciottesimo, c'è presente un'altra trovata sempre. Il prediciottesimo è già questo decennio. Anni 10-20. Ma pure l'epoca delle tette rifatte a 16-17-18 anni è più o meno seconda metà degli anni 90. C'era anche un'eredità di Beverly Hills 90210 in cui ti raccontavano proprio queste storie di queste ragazzine ricche che a una certa età cominciano a rifarsi, e nasce tutto da quel periodo lì, secondo me. E se rifacevano anche male, poi non erano neanche particolarmente prosperosi, infatti, no. È quello che dico, se rifacevano male, parlavano degli interventi estetici che i tocchini che facevano, sì, ma non saprei dirti se le tette o cosa, però insomma vabbè, vi stempero un attimo il clima, sì. Di interventi strani, no? Diciamo, in famiglia mia madre ha dovuto fare un intervento alla mascella ai denti, ne ho dovuto togliere i denti del giudizio, e diciamo aveva perso un po' di tonicità alle guance e al collo, ha deciso di farsi un intervento di chirurgia correttiva plastica e di farsi dare una tiratina. È successo più di 10 anni fa questa cosa. Mia madre è stata attentissima, dopo aver fatto l'intervento, a non uscire di casa fino a quando i postumi dell'operazione non erano spariti, perché non lo voleva raccontare in giro. Perché ovviamente dopo quella cosa non è proprio indolore, ti lascia dei lividi, c'è dei segni che durano per un paio di settimane. Insomma, è rimasta chiusa in casa, non lo voleva dire a nessuno. Mio padre, che è una specie di rana dalla bocca larga in questi frangenti, ha incontrato sua sorella, la madre, e ho chiesto: scusa Pietro, ma Grazia come sta? Sono due settimane che non la vediamo. Ah no no no, ha fatto il lifting e non vuole uscire perché c'ha i segni e si vergogna. Mia madre se lo sarebbe mangiato vivo, però mio padre ha opposto, come posso dire, una contestazione inoppugnabile, cioè l'ha guardata e ha detto: Grazia, tu ti devi presentare 3 settimane dopo essere sparita, senza rughe, con la pelle tirata e senza più occhiaie. Secondo te che avrebbero dovuto dire? Miracolo, è ringiovanita la moglie di Pietro. Se ne sarebbero accorti, gliel'ho detto io. Ci ho fatto un favore. Wow. E almeno ti parlano meno alle spalle, mettiamola così. No, ma in realtà, diciamo, dipende molto dall'atteggiamento che hai nei confronti della chirurgia. Deve essere sempre, essere comunque contenta tua madre che tu ne parli per radio di questa cosa. No, ma questa cosa lei la racconta come una barzelletta. Ah, ok, ok, va bene, importante. A me, sai cosa fa un po' impressione del ricorso alla chirurgia estetica? Io, per carattere, prima di farmi mettere le mani addosso da un medico, dovrei stare sul letto di morte. E non riesco a capire come fa, con una certa non voglio dire serenità, perché magari non è serenità, però come si è disposti al compromesso di finire su un tavolo operatorio per motivi che non sono legati alla salute, ma più che altro a un soddisfacimento di un'esigenza estetica. Ora non parlo che di smorfofobia, che aiutano significativamente a migliorare la qualità della vita di persone che non si accettano nel proprio corpo e allora con un intervento stanno meglio. Parlo di tutte quelle persone che in maniera abbastanza superficiale e superflua la misura in più di seno, il lifting di qua, la cosa di là. Io sinceramente non so con quale coraggio si prendono poi i rischi di un intervento chirurgico, di un'anestesia e poi tutto il post operatorio per avere magari una misura in più di seno. Non lo so, io non so come tante donne, ma anche tanti uomini, abbiano questa fantasia. Accettazione del seno, cioè, ci fosse Francesco lo spiegherebbe meglio, ma in realtà anche cose che a noi sembrano superflue, marginali o del tutto legate all'apparenza, per alcuni diventano fondamentali. Generalmente, se non c'è un'autostima altissima, un difetto fisico, qualcosa che non è un difetto fisico ma che tu percepisci come tale, diventa un problema. Io ripeto, per motivi, diciamo così, familiari, di amici, colleghi di mio padre che fanno anche interventi di chirurgia estetica, ne ho visti e ne ho sentiti parecchi, però devo dire, a parte cose assolutamente fuori di testa, tipo Mauro ci raccontò di una ragazza che voleva passare dalla quarta alla sesta e lui l'ha presa e l'ha accompagnata gentilmente alla porta dicendo: ma così si dovrebbe fare, cioè non bisognerebbe essere senza scrupoli. Esatto. No, una volta ci ha fatto ridere dicendo che lui per motivi religiosi non fa gli interventi di riduzione del seno, perché dice che là ci ha messo la mano il Signore e lui non vuole intervenire. Vabbè, però, che c'entra, però se c'è un disagio dall'avere un seno troppo grosso, perché non me lo devi ridurre? Cioè, no, vabbè, no, ma penso che sia una battuta, suppongo. Sì, no, cioè ci scherzava, in realtà ti posso garantire, lo stava per fare una persona che conosco, che poi ha saputo qual era diciamo il prezzo da pagare in termini di dolore fisico dopo, perché pare sia una cosa che ha un post operatorio devastante e ha cambiato idea. Vi posso dire che c'è gente che approfitta di alcuni interventi fatti per salute e in mezzo ci butta la chirurgia. Ma guarda, vabbè, se noi parliamo di chi fa la deviazione del setto nasale 9 volte su 10 se rifà il naso, certo, sì, sì, cioè, vabbè, certo. Stai là, fallo. Vabbè, cioè, no, questo è da una parte. Beh, io per esempio farsi 2 misure in più per motivi di vanità e farsi ridurre il seno per i disagi che si possono avere da problemi schiena, postura, eccetera, dall'averlo troppo grande, io sarei più portato, giustifico più la seconda che ma la sì, prima. Ma sì, certo. Ma poi voglio dire, interventi a seno si possono fare per tantissime ragioni. Poi dalla quarta alla sesta ce l'hai la pelle per contenerlo. No, sono gli ho chiesto. Poi Mauro, diciamo, è abbastanza esplicito. Michela, tu stavi dicendo? No, dicevo che io devo, vabbè, prendere coraggio e rifarmi il setto nasale, ricostruire il setto nasale ormai da 20 anni. E però, cioè, prima o poi io dovrò fare, perché praticamente non respiro dalla narice e quindi non lo so come vado avanti per inerzia. E quando non respiri pure dall'altra, che è il problema. Se questa cosa ti può essere d'aiuto, un mio amico l'ha fatto, credo, un po' prima del lockdown. No, io lo stavo, diciamo, per fare. Poi il mio ex ragazzo, diciamo, si è operato lui prima di me. Ho visto quanto ha sofferto e quindi gli ho detto al medico: vabbè, le cose sono pure cambiate. Le cose sono cambiate, a cominciare dal fatto che non ti mettono più il tampone da un metro nel naso, ma ti mettono dei tamponi molto più piccoli, credo in materiale siliconico o qualcosa del genere, che sono molto molto corti e te li tolgono tipo il giorno dopo. Perlomeno questo mio amico ha avuto un decorso semplicissimo rispetto a tanti racconti di altri amici che si sono dovuti fare i turbinati e veramente, insomma, è stata una sofferenza. E lui invece mi ha detto che la tecnica è andata avanti e se non ha avuto particolari risate, infatti, per un paio di giorni ha risolto tutto. Abbastanza convinto che oggi, bene o male, dal punto di vista tecnico, è vero pure che dipende sempre anche dal tipo di problema, dal tipo di rottura, di frattura che comunque deve essere fatta, perché comunque, cioè, nel senso, è sempre avere un po' il naso, insomma. Sì, no, però ti dicevo che comunque il discorso chirurgo... di questi tamponi di cotone che ti mettevano nel naso, che erano praticamente 50-60 centimetri di tampone spinti, e che poi dopo ti devono sfilare, quindi quella era la parte brutta da tutti. Però vi sto dicendo che l'odorino, che vabbè, poi io conosco praticamente da una vita, perché ha operato alle tonsille, alle adenoidi, chiunque di noi in famiglia, e lavora al Bambino in Gesù a Polidoro. Tu hai levato le tonsille? Io non le levo, ce l'ho le tonsille. Io ce l'ho. Matteo ha torto tonsille, adenoidi, poi ha messo drenaggio alle orecchie, insomma un sacco dei cavoli. E lui mi ha spiegato che poi potevo scegliere quale, cioè lui per convincere diceva: poi puoi scegliere quale può essere il naso adatto per il tuo profilo. Io, guarda, mi frega niente, io il mio profilo sta a posto così. Vabbè, ma ora che lo devi fare, poi incluso nel prezzo, cioè, sì, cioè ora che lo fai, sì, dai una sistemata, sì, cioè, certo, ci devono rompere a plasma, no? Già che stanno lì, sì, ma infatti io su quello sono d'accordo. Tra l'altro lui primario del Bambino Gesù, sempre che sia coerente, voglio dico, col viso, perché io ho visto gente, esempio, che ha fatto quel mio amico che raccontavo prima, non ha aggiunto un intervento tipo estetico, perché praticamente è riuscito a fare l'intervento di non era di rinoplastica a questo punto, credo, comunque di correzione del setto nasale, e coperto dall'assicurazione sanitaria integrativa del posto di lavoro. Se ci avesse aggiunto anche la parte di natura strettamente estetica, avrebbe dovuto pagare, credo, lui 1.000-1.500 euro in più di tasca sua, quindi ha lasciato perdere. Comunque, Lecce, donna di 29 anni uccisa e coltellata in strada, i carabinieri sono sulle tracce dell'ex fidanzato della vittima. Vedi, alla fine è tutto a posto, tutto a posto. È colpa degli islamici, è colpa dei negri. Sì. Quello, no, vabbè, ma no, colpa del lockdown. I matti ci sono sempre stati, ma credo che questo quasi ormai anno, anzi in realtà abbiamo timbrato un anno da quando l'epidemia è stata dichiarata. Eh sì, febbraio. Dichiarata, sì, però il 24 febbraio, proprio il giorno in cui hanno chiuso Codogno, poi è il giorno che io ricorderò per sempre, perché è il giorno in cui mio suocero è entrato in coma, quindi che te lo dico a fa. Sì, beh, ma è più o meno febbraio, anche se poi... Sì, ha fatto un anno l'altro giorno dalla diagnosi a quella coppia di turisti cinesi a Roma, dei primi due casi di Covid, ormai dico Covid pure io. O Covid, no, che poi tra l'altro... Lo spaccio profondo che ci ha raggiunto in chat, ciao cuciniere. Anche Roberto Dumaiolo. Buonasera. Pure roba, tutti adesso stanno a venire, bravissimi ragazzi. Io... Buonasera pure a te. Tra l'altro, sì, comunque un anno di Covid, anche se, come abbiamo visto, se ne sono prove oramai accertate che il Covid girava... Ma sì, da mesi prima. Insomma, da mesi prima, ma io mi ricordo... E lo dico spesso, però mi ricordo che comunque c'è stato quel periodo precedente, anche settembre, fine estate, quando si parlava di tutte quelle polmoniti improvvise, misteriose, che la gente moriva e via dicendo, e che secondo me, fino a che hanno potuto contenere la notizia, diciamo così, l'hanno tra virgolette contenuta, forse non, oppure veramente non c'erano rischi. Io credo che non sapessero di che cosa si trattasse, sì, effettivamente ci sta. Che non può essere. Si era riconosciuta l'etimologia di questa epidemia. Comunque Roberto Tomaiolo ci dice: in Israele i primi dati ci dicono che il vaccino sta funzionando bene. Sì, ce ne auguriamo tutti quanti. Il problema è arrivare a fare la prima, nonché la seconda dose. Quindi, insomma, aspettiamo con pazienza. Tra l'altro, ho letto boom di prenotazioni degli ultraottantenni online. E vabbè, ma credo che gli avranno boom più che le prenotazioni, nel senso che, come al solito, l'infrastruttura pubblica al momento del lancio di una, di un'iniziativa non ha retto il carico. Sì, dicevi. No, dicevo che c'è un boom delle prenotazioni nella regione Lazio per gli ultraottantenni, quindi speriamo che si leviamo presto questi cazzi degli ultraottantenni, così ce lo possono fare noi pure il vaccino prima o poi. Più che altro è chiaro che nelle nazioni con una contenuta dimensione della popolazione, chiaramente il discorso è anche più gestibile, no? Noi però abbiamo fatto giustamente molta polemica sul discorso del governatore della Campania, perché si è fatto il vaccino Beh, Lombardia. E nessuno dice il fatto che in Lombardia la metà dei vaccini che erano destinati al personale sanitario è andata a finire a persone non facenti parte del personale sanitario. E continuo a sostenere che c'è veramente qualcosa di male in Lombardia. Ma cioè, poi ho sentito qualcosa pure di culturalmente sbagliato. Ho sentito il nome di Bertolaso riguardo ai vaccini. Spero che non si tratti di qualcosa di nazionale, che resti in Lombardia. Solo per la Lombardia. Ah, guarda, se lo tengono pure. Se lo meritano proprio a volte. Guardi. Salutiamo anche i lobby frontali. Non contenti della Moratti alla sanità. L'idea è che ci vuole un commissario alla Bertolaso. Beh, ma sono tutti gli amici loro, cioè, tutti quei zozzoni. Vogliono continuare a speculare sulle disgrazie. Anche in questo momento vogliono continuare a mangiare denaro, c'è poco da fare. Mi pare che è uno scenario che non si possa che confermare. Loro quello vogliono. Comunque, vabbè, lasciamo stare, perché sennò. Ma vogliono, ma poi la cosa assurda. Per COVID. No, la cosa assurda è che io non mi spiego. Cioè, me lo spiego sì, ma non mi spiego com'è possibile che alla luce del sole questi ormai è chiaro quello che stanno facendo e non c'è un intervento in nessun modo, neanche una voce. Cioè, voglio dire, no, un intervento che uno dice, oh, vabbè, togliamogli proprio il giocattolo. Il governo, quel poco di governo che c'è, sta a giocare a ruzzica da due settimane. No, cioè, non so, due settimane. Manca essere, comunque c'hanno lo scudo del fatto che sotto certi aspetti ha sputato sul mixer di autonomia ed è sacra inviolabile. Abbiamo fatto una cazzata con la riforma dell'articolo 5, ora che lo diciamo. Sì. No, io sono assolutamente d'accordo, ma lo ero già allora. E comunque, secondo me, la presenza dello stadio, lo stadio centralizzato. Vedere la Lazio, dai, dillo. È un po' sì. A me, devo dire che io erano tantissime, non ci andavo allo stadio, quindi mi cambia poco. Però vedere le partite così è un po' triste, dai, diciamoci la verità. Insomma. Anche se, comunque, alla fine, comunque, in qualche maniera, come diciamo, show must go on, anche perché lì veramente, nonostante i miliardi persi, insomma, da tutta l'industria, quindi tutto l'indotto in meno e via dicendo, comunque alla fine c'è talmente tanto lavoro dietro lì che alla fine. Ma forse è la volta buona che il calcio a livello globale capisce che non possono fare contratti da centinaia di milioni di euro a un singolo giocatore. Forse speriamo. È arrivato il momento che lo capiscono. Ma sì, speriamo. Io non. E questo è come eravamo ottimisti del fatto che il Covid avrebbe cambiato la nostra società. In realtà, sì, sì. No, a voglia. Mai. Chi è mai stato ottimista nella vita? Io no. Io sì, e quindi cioè, sicuramente. Fai male. Fatto lì, fai male, fia mia, perché guarda, se sei pessimista e poi le cose vanno bene, bella sorpresa, ma se sei ottimista e poi da vinder, capito? No, bisogna essere mediamente pessimisti, con un filo di speranza, però mediamente pessimisti. A proposito di filo di speranza, ragazzi, hanno praticamente ufficializzato, o quasi, perché ha confermato che si farà uno degli attori, in particolare l'attore che interpretava Sergio, si farà la quarta stagione di Boris. No comment da parte mia. In questa tu sei proprio messo il muro e deciso. Sì, che sono proprio, qua sono proprio pessimista, perché quando c'è una cosa che tu ami così tanto come io ho amato Boris, perché io veramente ho amato Boris, ma veramente mi è piaciuto tantissimo. Già solo vedere il film è stata una ferita profonda. Ma io non ho visto il film, devo dire la verità. Non posso commentarlo, non l'ho visto. Quindi non so. non so per niente ottimista, nel senso che poi a un certo punto ho paura che andranno proprio a rovinare. Vabbè, raga, ma questo succede sempre, cioè nel senso, quando una cosa è comunque bella e piace, no, bel genere, poi dopo nel dover ritornarci sopra anche anni di distanza, il rischio, no, che ci siano dei... Io comunque ho sentito Pannofino a Radio 6, perché è intervistato, ovviamente lo sapete che Pannofino è della Lazio, quindi l'hanno intervistato così sul in generale, e comunque gli hanno fatta la domanda dicendo che lui c'erano delle buone probabilità, ma questo parlo comunque quasi un par di mesi fa, c'era una buonissima probabilità che ci sarebbe stata una nuova stagione di Boris, ma che sarebbe stata una miniserie, cioè non sarebbe stato è tipo 4-5 episodi. Sì, tipo 3. Può essere celebrativa di Luca Torre, di Mattia Torre, scusate, soprattutto. Sì, loro la vedono come una rimpatriata. E poi non c'è più Mattia Torre, che comunque era il genio che ci metteva una pezza. Faccio un ragionamento. È vero, Mattia Torre è un attore geniale come pochi. Però intorno a quello che ha reso Boris il successo che è stato è che Boris Johnson, in questo microcosmo ruotavano talenti enormi, ognuno di loro nel suo piccolo era un genio in quello che faceva, si è creata un'alchimia tale per cui secondo me se azzecchi il canovaccio giusto per la sceneggiatura non rischi di fare René Ferretti e il teschio di cristallo, nel senso il rischio che venga fuori un prodotto che rovini le tre stagioni precedenti o che non sia all'altezza c'è sempre, però secondo me non è così alto, proprio perché già il fatto che attorno a quel mondo ci girano personaggi come i Santi, come Valerio Aprea, come altri autori e attori nel cast che sono in grado già da loro di fare, intanto partono asset, mani, cioè i ditini grossi così. La sceneggiatura secondo me può succedere che venga una bella cosa. Bisognerà vedere se indovinano la trama giusta e che se cominciano Se riescono ad inquadrare gli stereotipi giusti a più di 10 anni, perché la televisione che loro raccontavano è cambiata tantissimo rispetto a quella che raccontavano all'epoca degli sceneggiati come Occhi del Cuore. Magari adesso parleranno di qualche reality show, perché ovviamente ormai in Italia si produce a livello televisivo mainstream si produce solo quello. Dubito che li vedremo sul set di una serie alla Gomorra, è più facile che li vedremo nel set di un reality show. Io comunque vedo Lobby Frontali in chat, allora, che scrive cose ma non intanto capisco. C'è Roberto che risponde sui vaccini, dice: beh, 4 miliardi nel 2020 per l'Italia, 1 miliardo per i vaccini, infatti vabbè, non gli è toccata l'Italia al Lobby. Se storia all'Italia, ragazzi, se la siamo portata. Cioè Simone, cioè, che hai detto eri giallo allora, non so, non a che si riferisce. Non ho capito a che si riferisce. E fa l'essere come va a Michela, io so sempre come voglio, poi gli è meno. Gli è meno in separata sede. E poi ha proprio espresso il mio pensiero, spero in un Boris 2049, quindi sì. Abbiamo detto no, ma tutto. Il problema, io quello che lo dico sempre io, è che ogni opera è figlia del proprio tempo e comunque anche della propria intuizione, no? Oggi chiaramente fa Boris, come ha detto lo stesso Pannofino, è state delle revival, state Amici Miei, cioè fondamentalmente. Mm-hmm. E alla fine atto terzo, non secondo, sì, diciamo, può essere una cosa carina, perché può essere, io non è che cioè non voglio se c'ho l'hype, no, cioè nel senso, se mi capita me la vedo e se mi piace applaudo, se non mi piace non applaudo, ma certo non è che sto lì aspettando che fanno Boris quarta stagione, insomma, perché cioè, io non ho visto la terza, per esempio, cioè per me, no, l'abbiamo vista la terza, io non me la ricordo, abbiamo iniziato a vederla, pensa che l'abbiamo vista, no, tutti insieme, no, e no. Poi è arrivato qualcuno tipo Rossano, ha mangiato un piatto di pasta e se è andato, ha detto bella sta piatto serie, di pasta non di cazzate, è arrivato, è entrato Rossano, ha mangiato 4 piatti di pasta, ah, grazie, detto, e se è andato, bella, io ho detto serie. Ma che cazzo è questo, non voglio più vedere dentro casa mia. Però poi dopo invece è simpatico. Comunque su Netflix c'è tutta, se la vuoi recuperare, sa pure i film, sì. Ci stanno. Il film mi sembra su... No, il film su Netflix non c'è. No, non c'è, credo fosse su Replay probabilmente. Sì, sì, mi sa. Ve lo dico. Il film già è un esempio poco riuscito, perché rispetto alla serie gli mancavano tantissimi spunti alla fine. Beh, portare una serie di episodi da 20 minuti in un film da un'ora e mezza già è proprio il contesto nel quale tu l'hai pensata la cosa che non può funzionare, no? Cioè, questo succede. È come fai fare il film a Maccio Capatonda: i primi 3 minuti, i primi 10 minuti ridi, poi dopo dici, ma che è sta merda? O ancora peggio, forse qui magari qualcuno si adirerà, quando il trio Solenghi, Marchesini, Lopez hanno fatto i Promessi Sposi. No! No, era una cosa inguardabile, una cosa inguardabile. Ah, io me lo vedo ancora adesso, stracinata per ore e ore, perché quella cosa doveva durare così e c'erano ste battute che si ripetevano all'infinito. Ma quello è perché, siccome mo parlando di gente che mi martellerà i coglioni, siccome fa tantissimo cagare i Promessi Sposi, a mio modesto parere, tolta la questione della lingua. Ma perché? Ma scusa, che c'entra? Ma non puoi. Perché fare una parodia di una cosa che già di per sé, se la leggi con gli occhi di un uomo del 1900, fa ridere di suo? Cioè, una cosa dei personaggi più odiosi, stereotipati, irrealistici. Ma no, irrealistici, perché irrealistici? Perché, cioè, voglio dire, all'epoca era così, cioè, nel senso, comunque è contestualizzato in un momento storico. Poi ti può non piacere, però la contrazione popolare dell'epoca. Esatto, sì, bravo. Io avevo un professore di storia, in realtà, non di lettere, perché avevo, diciamo, un altro soggetto come professore di lettere, che diceva: guardate che i Promessi Sposi lo state leggendo al di là per una questione linguistica, semplicemente perché è stato un best seller all'epoca, che in realtà pochissimi hanno letto ma tanti hanno comprato. Fece un paragone con un altro libro che ora non vi cito perché lui era un provocatore nato, però aveva ragione, però diceva: è uno di quei libri che molti hanno comprato ma che in pochi hanno letto. E quando poi ve lo siete trovato a scuola, dalle medie fino alle superiori, sappiate che parte di quella colpa, lui parlava spesso della questione Gentile, è legata al fatto che sembrava doveroso farlo studiare. Poi c'è tutto il carico all'interno dei buoni sentimenti, la morale cattolica, quello che volete, ma penso di non essere il solo, c'è ampia critica in merito, come romanzo fa cagare. No. Tutto qua. Sì, in realtà non è un romanzo d'appendice, non approfondisce, è veramente stereotipale, però insomma col senno di poi lo possiamo dire, con la maturità intellettuale del ragazzo di 12-13 anni che lo studia alle scuole medie, no. Anche se oggi veramente la soglia di interesse è talmente bassa che secondo me sugli studenti di oggi cercare di farli, non dico appassionare perché chi si è mai appassionato ai Promessi Sposi, però cercare anche solo di fargli seguire questa narrativa per tutti, praticamente per il triennio di scuola a un certo ma punto che triennio, dai, ma che dici? Io no, scusate, c'era una cosa, ma solo in un anno l'hai studiato i Promessi Sposi? No, noi ce l'ho, cioè sì, al classico te lo sorbivi in tutti. Vabbè, ma che c'entra, il classico non è una scuola normale, cioè sì, parlo delle scuole medie, della prima lettura, non sto parlando della Divina Commedia al liceo, ecco. Comunque sappiate che è stato sentenziato dall'alto dell'accademicità, insomma, di OGM, che i Promessi Sposi è una cagata pazzesca. No, ma io in qualsiasi momento. No, sempre quel professore di storia che vi dicevo, che vi ripeto, era un provocatore nato, non era il mio, stava in un'altra sezione. Disse una volta durante un'assemblea una cosa che veramente era da applauso. Disse: se proprio vogliamo leggere un romanzo dell'epoca, no? Vabbè, è una traduzione, però I Tre Moschettieri di Dumas ha una bello. Rappresentazione storica migliore, bellissimo, di quella dei Promessi Sposi. In più, una cosa che mi fece pisciare sotto alle risate: se proprio dobbiamo ringraziare un autore per qualcosa che ha fatto per l'Italia, beh ragazzi, sappiate che Dumas con le royalties dell'epoca dei Promessi Sposi ci ha pagato i fucili a Garibaldi. Se proprio dobbiamo ringraziare qualcuno, ringraziamo lui. Vabbè, ma certo, poi Manzoni non... Ma al massimo era un romantico o un neoclassico, ma cosa? Boh, vabbè, sti cazzi. Comunque, giustamente Roberto Tomaiolo ci dice: beh, se pensi che la Divina Commedia c'è stata venduta a scuola come un libro cattolico, in effetti. Vabbè, in Italia cercano sempre di girare tutto nella chiave di lettura cattolica, anche dove non c'è, dove proprio non esiste. Poi c'è Cuciniere che concorda con Puccio, che sia Cuciniere che Lobby Frontali vogliono sapere qual è il titolo di paragone, ma di che cosa? Cioè, io non mi sono perso. Dell'altro libro che tutti ci hanno, pochi hanno letto, penso fosse la Bibbia. No, il Mein Kampf. Ma che dice? Chi ce l'ha? Ma chi ha letto? Allora, se parlate con io l'ho letto, però cioè non ce l'ho dentro casa. Ragazzi, no, no, vi spiego. Nel momento in cui parlate di se parlate con qualcuno che si occupa di editoria, ve lo citerà come esempio il Mein Kampf, di libro che vendeva a carrettate, ma che in realtà non aveva letto nessuno. Perché in Germania si comprava perché c'era Hitler, vedi, ma dove non so averlo, perché se non l'avevi in casa c'era qualcosa che non va. Allora, in realtà non l'aveva letto. Poi nessuno. Libro è una parola grossa, cioè comunque sì. È il libretto, cioè è un anche buon libro. Se mi sa che forse qualcuno ce l'aveva nella nostra famiglia, vero? No, c'è addirittura copyleft, quindi guardandolo potresti aggiungere. È copyleft, è giusto. Vedi, questa è una roba del tipo che io sono. Anche perché a chi li pagheresti i diritti d'autore del Mein Kampf? Scusa. C'ho degli eredi ancora in vita che si sono fatti saggiamente sterilizzare. Ma questo è un altro discorso. Ma al di là di questo, guardate, io sono assolutamente convinto che quel libro non andrebbe fatto sparire. Cioè, va spiegato, contestualizzato, eccetera. No, ma certo, ma io quando lo leggi ridi perché è pieno di stronzate, tipo la dannazio memoria, certo che non va. No, ma io solo. Lo sapete come la penso su sta cosa? Per me cioè nel senso nulla dovrebbe andare a finire nel dimenticatoio in generale, perché va chiaramente, come dice Puccio, contestualizzato nell'epoca e anche chi è la Gigi D'Alessio magari sì, dai. Ma chissà, forse un giorno anche quello va tenuto come memoria di quanta schifezza, esatto, cioè. Quanta monnezza abbiamo prodotto nel mondo, insomma. Voi dovete considerare che c'era un podcast. Posso solo ringraziarlo per quella volta che ci avevamo Grignani ubriaco a merda sul palco a Capodanno e riuscì a fermarlo. Comunque voi dovete considerare che noi facevamo un podcast, cioè Marco Bianchi e le stupide creature facevano un podcast sull'allora IPN che si chiamava Distinti Starnuti, ed è stato un podcast a puntate limitate, duravano 20-25 minuti a puntata, un quarto d'ora a puntata, insomma in generale. Ed era tutto basato sull'ironia, anche sul no sense, perché vabbè, loro le stupide creature questo facevano molto Elio e le storie tese, per capirci. Però loro praticamente avevano, Marco Bianchi in particolare, aveva ascoltato un numero X di podcast in un certo determinato periodo, perché lui voleva fare il podcast che pigliava per il culo i podcast. L'antipodcast, e secondo me è stata un'opera meravigliosa che infatti passeremo per su Runtime Radio, perché tanto è un'opera senza tempo, cioè secondo me non è contestualizzata, non è facile insomma individuare in che tempo è stata fatta, anche se oramai è quasi di 7-8 anni fa, insomma. E alla fine c'è stava sto podcast dal futuro che praticamente cercava di ricostruire, analizzare praticamente com'era la musica nell'epoca, insomma, e c'era sta cosa di come si chiama quello sempre con la fisarmonica, il cantante napoletano lì? Nino D'Angelo. Dai, quello che il gatto e la volpe, dai. Edoardo Bennato, bravo. Con la fisarmonica, con l'armonica, scusa, hai ragione, scusa. Okay. Edoardo Bennato. E alla fine cioè, loro fanno sta canzone, cioè abbiamo recuperato questa cosa tramite le ricostruzioni dell'intelligenza artificiale del nostro futuro, E c'era sta canzone che era proprio una canzone de Bennato, cioè proprio non era una canzone de Bennato, era una canzone che loro avevano ricostruito e sembrava poteva essere bellissima la canzone de Bennato, e serviva insomma per contestualizzare il fatto che alla fine, cioè nel senso ogni epoca c'ha diciamo i suoi schemi, no, le sue nel bene e nel male, ed era molto divertente, quindi la riproporrò insomma presto insieme a tantissime bellissime canzoni delle stupide creature, tipo Emofilia o cose del genere, insomma. Emofilia, che è una canzone di un vampiro. Sì, no, erano dei geni, sono dei geni. Poi ovviamente adesso, chiaramente, col Covid ne hanno risentito tanto anche loro, perché lavoravano molto sulle live, no? Cioè sulle serate. Perché Marco Bianchi è un buon musicista, un grande musicista jazz. Vabbè, sì, lui è un jazzista ancora, avendo lavorato, dedicato la sua vita a essere un turnista tra Italia, Svizzera, Germania e via dicendo. Chiaramente. Un frontaliere. Ha partecipato pure ad album molto importanti. Sì, però poi è chiaro che è uno che portava i soldi in contanti in Svizzera, non è chiarissimo per come l'avete descritto. Può essere tutte e due le cose. E vabbè, comunque Gennaro, praticamente, per chi coglie la citazione. No, non l'ho colto. Ripeti? Ditta De Gennaro. Ditta De Gennaro. No, Titta de Genova. Non avete visto Le conseguenze dell'amore? Film, uno dei primi film di Sorrentino con il bellissimo attore Galvano, l'attore feticcio di Sorrentino, come si chiama? Aiutatemi. Sorrentino. Ah, coso, quello che poi sta, cioè oramai poi è stato fatto anche La grande bellezza. Sì, aiuto, sì, ho capito, mo non mi viene. Tony Servillo. Tony Servillo, brava, brava. Esatto, Tony Servillo. E la storia di questo tizio che praticamente vive in un hotel in Svizzera e il suo lavoro praticamente è riciclare i soldi della mafia che dalla Sicilia vengono portati in Svizzera. Lui fa solo quello. Poi succedono delle cose che gli fanno cambiare punto di vista fino a un certo epilogo, però insomma è un film, a me è piaciuto molto. Io non l'ho proprio visto. Dunque, ringraziamo i zero ascoltatori. No, però dai, il conteggio è zero, ma in chat ci sono vari amici che stanno interagendo. C'è sempre Roberto. Se tu mi fai finire la frase, l'asse Campano è praticamente attivissimo. Ho capito, ti ripeto, se tu mi fai finire la frase, stavo dicendo, ringraziamo gli zero ascoltatori sulla web radio. Vabbè, ma tu confondi troppo le acque. Io faccio dire, deve essere così, deve essere un po' criptico, un po'. E comunque distinti starnuti lo passeremo perché infatti vedi Lobby Frontali dice bello distinti starnuti, non perché lui allora ci ascoltasse, ma perché ovviamente è curioso, ogni tanto gli mando blocchi di file dei vecchi podcast storici, insomma, che ogni tanto passano pure di mattina su www.runtimeradio.it. dalle 9, dalle 8 e mezza diciamo in poi, considerate che c'è sempre qualcosa fino alla sera, insomma, podcast a ripetizione tra le ultime uscite, le cose più moderne, a cose insomma un po' più ripescate. Ho iniziato a fare un runtime story, però troppo impegnativo, cioè se mi devo mettere lì non solo a pescare i podcast, a metterli in ordine cronologico, a fare lo speaking del racconto, non ne posso fare. Va bene, dai, continuiamo a parlare di cazzate. Ad esempio, la rapina. È una cosa becera, sta cosa. Io devo dire, non so se mi fa ridere. Però è successa. Se non ricordo male, in Repubblica Ceca, notizia della settimana scorsa. Ah, vabbè, allora già cambia tutto. Cioè. Questo ragazzo che decide di rapinare una stazione di servizio, quindi si fa consegnare subito i soldi della cassa alla stazione di servizio, non contento decide di andare oltre e con un po' di fortuna di riuscire a rapinare anche la cassaforte, quindi accede agli uffici e trova qualcuno pronto a scappare immediatamente, perché ovviamente la codardia del dipendente medio, ma ci può anche stare, è tale per cui se posso me la do a gambe levate. E vabbè, ma tu che avresti fatto? Scusa. No, mi sarei dato pure io. Okay. Allora perché insulti la gente così? Sì, vabbè, insomma, è per enfatizzare, no? Cioè, ma fatto sta che è bello insultare le persone. Mentre le forze dell'ordine erano state allertate, ma dovevano arrivare, serviva del tempo per guadagnare del tempo per far sì che la polizia arrivasse e cogliesse il ladro in flagranza. Cosa ha fatto una dipendente, una donna di 36 anni, decide di affrontare questo rapinatore molto più giovane da quello che ho capito, 24-25 anni. Cosa fa per distrarlo? Lo spoglia e gli pratica sesso orale. Allora, la cosa di per sé, se era una banca anch'io. No, dico, se, aspetta. Non è una stazione di servizio, non una banca. Vabbè, è uguale. Le stazioni di servizio? Le banche ci stanno. Non so perché. Che c'entra una stazione di servizio con le banche? Ci sono le stazioni di servizio, le? No, perché visto le vignotte. Come l'ha trattenuto. Che cosa c'è? Cosa usi in una stazione di servizio? Una? Ah, la pompa, certo, è chiaro. Ah, madonna, che è ironia troppo, troppo elevata. Io devo dire, se leggi il titolo ti può far sorridere, forse ti scappa anche. Se tu pensi la cosa, però, cioè, c'è anche una sua drammaticità, tutto sommato, cioè, nel senso, è vero che, sai, in Repubblica Ceca c'era una visione diversa delle cose. Sì, veramente, però vengono certe cose con un po' più di nonchalance, come un atto così, in amicizia, no? Ma poi l'hanno arrestato il tizio, cioè, questo. Sì, l'hanno arrestato. Però l'hanno arrestato contento. Quando hanno rivisto le riprese delle telecamere di sicurezza, gli agenti stessi della polizia non ci volevano credere. Ma magari era un gioco perverso tra tra di loro, magari si conoscevano già e si erano messi d'accordo. Chissà, hanno arrestato, non credo. No, hanno arrestato lui, certo. Però comunque poi gli avranno fatto qualche domanda alla signorina. Signori, perché allora, aspettate, aspettate, fermi tutti. Mi si è accesa la lampadina di un ricordo, ragazzi, del lavoro che non dovrei, però insomma, vabbè, non è facile. Un pompino, Simo, scusa il francese. No, no, di una questione praticamente. Allora, noi ci abbiamo avuto un cliente. Te lo ricordi quello matto? Questo era matto, ma erano tutti matti. Questo era matto, no? Stavo per dire, con quelli che ci hai descritto, uno normale. No, no, però questo era matto strano, perché questo non è che veniva a far matto da noi, cioè questo faceva le denunce faceva ai carabinieri e scriveva le cose. Fammi di. Cioè. Ma sì, ma basta, rivangare il passato. Ma no, è divertente, perché questo qua praticamente voleva essere pagato dall'assicurazione per il furto dell'auto. E noi diciamo, va bene, però per il furto dell'auto serve la denuncia dei carabinieri alla polizia e poi serve la perdita di possesso e tutta la serie dei documenti. E allora lui praticamente ci ha portato sta denuncia alla polizia. 10 pagine. Allora, ragazzi, allora questo intanto chiaramente sono i promessi sposi, 10 pagine. Intanto questo qua non poteva essere risarcito in teoria, perché la macchina non era stata rubata, ma era stata rubata dalla sua compagna, tra virgolette, non si sa che cazzo era, però cioè stava lì la macchina, che gliel'aveva rubata mentre cercava di convincerlo a dargliela in modo un po', no, ma praticamente spinto. Lui su sta denuncia c'era tutto sto racconto pornografico di tutta sta storia di lei che lo spogliava, glielo accarezzava e poi glielo prendeva in bocca e via dicendo, insomma è una cosa brava. Vabbè, c'è una copia di sta cosa, ce la puoi mandare. Margino, verbalizzi. Bravo, verbalizzi. Tu scherzi, tu immagini i poliziotti se si sono ritrovati questa denuncia a mano. Io non, no, lo ma sarei. Io pensavo che scrivevano quelli si sono spaccati da risate, ragazzi, cioè nel senso questo, cioè, prima gli famo scrivere la denuncia e poi lo portavo a me. Comunque non mi ha fatto mai ridere questa storia. Beh, ma lui era una tristezza totale. No, lui era un po' strano. Era strano, era uno che era un po' stalker, era anche, cioè, era uno che non stava, ma era come posso dire, una sorta di pieno di ego, cioè nel senso che in parte, scusami una cosa, vabbè, in parte mi ricordava mio padre, cioè nel senso che era uno di quelle persone che parlava di sé quasi in terza persona, no? Che questa donna non è che gli stava facendo questa cosa perché così lui si distraeva e gli sottraeva le chiavi della macchina, ma lo stava facendo perché lei lo trovava irresistibile. Cioè, ma poi tutte queste cose in una denuncia dei poliziotti, cioè tu immagina dentro quella stazione di polizia, secondo me sono stati arite fino al giorno dopo, cioè perché era una cosa, raga, e non, cioè noi a un certo punto, a me quando mi è arrivata sta cosa Azzurra mi passa la denuncia, dice guarda questa è la denuncia di quello del furto, però nessuno l'aveva letta, perché giustamente per noi è tipo una pratica, no? Io poi la leggo perché devo vedere i dati e le cose, e più leggevo sta cosa e più dicevo ma che cosa, cioè non c'era neanche la denuncia del furto, capisci, cioè non poteva essere neanche accettata come cosa. Io ho detto alla fine, quando questo mi ha chiamato, ho detto scusi, ma io non la posso neanche allegare sta cosa, cioè, alla fine è diventato un romanzo Harmony e non si parlava del furto della macchina. Esatto, sì, alla fine volevamo tutti sapere come era andata a finire sta storia e questo, vabbè. Vabbè, se c'era sesso non era Harmony, era no, era peggio ancora, in effetti era la versione hard di Harmony, sì. Hardmony, esatto. Blue Moon si chiamava. E vabbè, niente, vabbè ragazzi, comunque io penso che negli uffici delle cose strane, insomma. Ma guarda, lì e nei pronti soccorsi io credo che abbiano da raccontare varie umanità, cose che noi umani non possiamo neanche immaginare. Sì, io c'avevo un amico che lavorava ai pronti soccorsi e dice che in effetti ci sai quelle leggende che girano, forse sì, forse alcune sono un po' esagerate, dice, però insomma ne viene gente qua roba dentro al culo. Figurati, poi per i motivi più disparati, esatto, no, esatto, anche per errore, è stato un errore, è stato un incidente. E vabbè, ragazzi, alla fine questo è, insomma, sono le cose che succedono nel mondo, no, perché poi rido perché ogni tanto mi rivengono in mente veramente i pazzi che sono passati, e il problema è che quando tu fai un lavoro che c'hai a che fare con il pubblico è inevitabilmente su 100.000 persone, sì, vabbè, su 10.000 persone, facciamo così, che vedi nell'arco di un anno, perché comunque nell'agenzia nostra alla fine li vedevamo, cioè, e c'era quel 5%. Guarda, voglio essere generoso, avevo 5% dei matti, ma valevano per tutti gli altri, cioè proprio... Guarda Simo, io nei miei 2 anni di lavoro in videoteca, soprattutto con certo, cercavano generi particolari tra i film per adulti, te ne potrei raccontare di ogni. Però lì la cosa divertente era metterci comunque un po' di ironia per drammatizzare, perché altrimenti... Io mi ricordo una volta entrò un tizio, è entrato già trafelato, quindi già preoccupante, e si è lanciato col fiatone nella saletta dei film per adulti, e tu dici già là... Stavo già col veleno. Fatto sta che dopo un po' sto tizio esce, mi guarda e mi fa: senti, ma ce l'avete i film coi pony? E io per lì per non sbottare in faccia gli ho detto: no, guardi, non abbiamo documentari. Cercato di buttarla lì a sdrammatizzare, perché che gli rispondi? Coi pony. Un altro che entra, arriva, va nella sala. Cosa? Mio marito non ha capito, cioè, regà, vabbè. Perché i boni? Anima pura, però. No, ma io ho capito. Voleva i film con gli animali, voleva i film con i boni, film porno. Ho capito, ma perché coi boni? Cioè, nel senso. Quelli con gli animali, perché. C'è un genere fetish estremo che si chiama Pony Girls, che sono delle ragazze con tipo, che ne so, le redini e gli stivali fatti al zoccolo di cavallo. No, non so come tu conosci tutti questi tecnicismi, però ciò che vediamo infatti alla fine c'è Puccio, ci stupisce sempre, bisogna dire la verità, Puccio è sempre una informazione più di tutti gli altri, insomma. Stiamo parlando dell'epoca delle videocassette. Ma Puccio lo fa per OGM? Ho fatto questa domanda perché in realtà l'esistenza di questo fenomeno, che poi appare particolarmente diffuso in Europa del Nord, me lo ha raccontato la prima volta un'amica che faceva psicologia all'università quando eravamo insieme a Urbino, perché stava facendo una ricerca tipo su queste comunità con interessi sessuali non com'è che li definiva? Non convenzionali, non convenzionali del genere, e mi raccontò di questa cosa, okay. E comunque giravano fior di videocassette già all'epoca sull'argomento, per questo chi si è acceso, cercava palesemente i film con gli animali. Però scusate, io capisco, no, la pornografia con gli animali, i cavalli, i cani, quello che vuoi, ma perché proprio il pony? Cioè, perché il pony? Ne so, sarebbe stato da chiedere a lui, come un altro che io lo potevo chiedere, scusi, anche... ma perché il pony? Cioè, che... Infatti, sì, no, se fossi stata io, gli avrei fatto di potenza. Io glielo domandavo assolutamente. Un altro invece che entra dopo diversi minuti, che esce dalla. Entra, va nella saletta dei film per adulti. Dopo diversi minuti esce, viene da me e mi fa: scusa, ma dove avete la cabina? Io guardo, dico scusa, non abbiamo la cabina. Per la cronaca, cercava il peep show, no? Sì, vabbè, è chiaro. Cioè, non vedo perché dovesse pensare che avessimo la cabina, neanche a dire che ce l'avessimo mai avuta prima o dopo. Vabbè, ma perché lui veniva dal nord Europa. Cabina, per dire, ovvio che ci deve essere, dico, non abbiamo la cabina. Lui mi guarda e fa: ah, posso usare il bagno? No, è rotto. Cioè, tutte quelle situazioni che tu dici, ma dai, una barzelletta, ragazzi, ti assicuro che sono successe. Eh beh, c'è su Clerks, no? Quello là che si. Se... Esatto. Sì. Su Clerks, quello sarà andato a fare la pippa al bagno, alla fine c'era morto, e lei quando va al bagno se lo scopa. Vale, cioè, dopo che mi chiedi il peep show, ma secondo te mi chiedi di usare il bagno? Io ti dico di sì, cioè, ma manco morto. Ragazzi, eppure queste cose succedevano davvero. Succedevano veramente. Ma guardano, ti dico, non faccio fatica perché il mondo è strano. È veramente strano. Cioè, tu sì. Vai dalla polizia e fai la denuncia. Io, in quanto assicuratrice. Custodisco segreti che non potrò mai raccontare. Io li racconto. Il confessore, però dai, si dice il peccato, ma non il peccatore. No, non si può dire neanche il peccato. Proprio per diciamo, per ci sono impostato... cose che sono facilmente riconducibili, diciamo così, perché vabbè, in qualche e maniera. E poi comunque vesti un ruolo che poi alla fine entri. Entri nella vita delle persone e comunque certe volte te li trovi. Ti ritrovi comunque a sapere delle cose. Scava la merda. Che uno dice a mappa. Però. Vabbè, questo. Fantastico. La cosa più divertente all'inizio era quando la gente entrava e non voleva la scatola nera dentro la macchina perché veniva tracciato, no? E di solito questa cosa la facevano gli uomini. cioè nel senso, perché secondo gli uomini perché mi fermo sulla salaria più o meno, sì, esatto sì, sì, ma... guarda che fotografato col furgone della ditta accostato sulla salaria per andare a prostitute su Google Maps, ragazzi, è successo davvero, eh? Beh. Purtroppo, cioè, non è la scatola nera che ti salverà da questo, semplicemente, anche perché la scatola nera non gliene frega niente se stai andando, ma semplicemente se andare a prostitute nella tua vita è una condotta sbagliata, non lo fare, cioè nel senso, sì, ma la gente comunque interpreta l'uso di determinati dati o di determinate tecnologie secondo la propria paranoia. Mi ricordo sempre nell'era della videoteca c'era un cliente che un giorno mi attaccò il pippone, come si dice, per più di un'ora, perché voleva che io modificassi la sua grafica sul programma della videoteca mettendogli un cognome fasullo, perché così secondo lui non rischiava che gli venivano a fare il controllo perché non pagava il canone della Rai. Allora io dico, scusa, ammesso e non concesso, ma secondo te qualcuno viene da me e mi chiede l'estrazione dei dati degli utenti della videoteca per capire che c'hanno il televisore in casa? Ma ancora di più, ma secondo te, ma se arrivasse qualcuno, ma ti pare che io gli darei i dati? All'epoca non c'erano il GDPR o queste cose, ma il concetto di privacy c'era. Ti pare che qualcuno può arrivare da me e chiedermi i dati degli abbonati in videoteca? Ma stiamo scherzando? A meno che non c'ha un mandato specifico. La Guardia di Finanza non lo fa per cercare se evadi il canone Rai, magari se lo fa per altri motivi, a quel punto gli devi dare come. Se c'hai un mandato, cioè vuoi dire, comunque alla fine, comunque un'autorizzazione anche a livello di magistratura, alla fine quello devi fare. Sì, però il film che si è fatto quello, no, perché se no si scoprono che non pago il canone. Perché per lui il collegamento, il nesso era: sono tesserato in videoteca, quindi sanno che ho un televisore e quindi sono tenuto a pagare il canone Rai. No, vabbè, ma de paranoie così le vediamo. Vi informo che ho mandato un messaggio alla mia amica dell'università dicendo: ti ricordi la storia delle Ponytails, delle Ponygirls, che mi è venuta in mente adesso per una cosa? Adesso voglio cercare Ponygirls. Voglio capire, perché cioè, io a un certo punto è cultura, Ponygirls. Vediamo, andiamo bene qua, vabbè, tanto voglio dire, ragazzi, rispetto a tutte quelle che mi chiedono amicizia su Facebook, pratiche di ricerca antropologica, direi che possiamo anche cominciare a tirare le somme. Aspetta, attenzione che Pizzi sta scoprendo nuovi mondi. Attenzione, vediamo un po'. Ah, vabbè, niente de così, cioè, sì, no, ma non è una cosa hardcore, niente di così abietto, tutto sommato, niente di più e di meno di quello che vedi anche con le gare di cosplay, tutto sommato, cioè, quindi sì. alla fine ci può stare, sì. Carissimi amici di Runtime Radio, ben stati con noi. No, benvenuti, perché sì, chiaramente esatto. Ah, dì la verità, cioè stavi a provare, dai. Ci siamo per iniziare una nuova puntata di OGM, ma noi in realtà stiamo andando a dormire. Allora, vi ringrazio a tutti quelli che sono stati nella chat, chiaramente Roberto Domaiuolo, cuciniere, Lobby Frontali, ho visto Rizzard e poi non so bene chi altro. Ringrazio anche quelli che eventualmente dovessero aver ascoltato anche soltanto per un minuto tramite www.rantemeradio.it, che vi ricordiamo è la nostra web radio che è ufficiale, parte, c'è, esiste, e le live, oltre ai vari programmi in rotazione, quindi in replica durante il giorno, le live vanno anche lì, quindi se volete ascoltarle lì perché vi è più comodo, perché alcuni programmi piano piano diventeranno in esclusiva soltanto sulla web radio, insomma, abituatevi, perché questa è una nuova realtà, c'è, e quindi un po' Spreaker, un po' lì. Quello che riguarda i podcast rimarrà sempre, quindi i podcast sono la nostra origine, sempre sopravviverà. Detto questo, quindi vi ringrazio a tutti, vi ricordo che questa notte, per esempio, dall'una in poi ci saranno tutte le repliche di Runtime by Night per 4 ore, insomma, avrete l'opportunità, magari non dormite, insomma, quindi noi siamo sempre attivi, sempre, la radio funziona sempre, non è come quelle web radio che voi state lì e c'è solo musica e poi dici, ma che cazzo l'hai fatta a fare la web radio se metti solo musica e non la puoi manco mettere, quindi insomma diciamo così. Spieghiamo che la nostra web radio è dal vivo, perché in realtà noi non riproponiamo le registrazioni dei vecchi programmi. C'è un ventriloquo cinese pagato a scodelle di riso che legge i copioni degli show precedenti, ma lo fa sempre in diretta. Esatto, è tutto in diretta, c'è sempre qualcuno in studio che controlla. Sembra stupido, ma in realtà è un po' è così, c'è sempre qualcuno che controlla anche se lo stream si cippa, si cioppa e via dicendo. Detto questo, con OGM ci rivediamo la prossima settimana. Durante questa settimana avremo domani mattina alle 7:20, così come giovedì mattina alle 7:20 avremo il nostro Leo Vargheon con il mattino all'oro in podcast. Attenzione, me lo so pure ricordato. Giovedì avremo uno speciale Brexit, un mese dopo io e Michela con due ospiti ovviamente che sono attinenti al discorso britannico e quindi Brexit. E venerdì invece avremo una puntata dell'Unico Forum intitolata Nerd, evoluzione di un insulto, che è ovviamente questa parabola dell'universo nerd culturalmente negli ultimi 30 anni della nostra storia, come è evoluto. Poi chiaramente sabato escono gli scimmioni, poi via dicendo. Domenica c'è Mono. E domenica c'è Mono e sabato sera c'è Runtime by Night alle 23:30. Detto questo, io saluto e ringrazio Michela De Paola. Grazie a tutti e niente, vabbè, mi sono imbucata come sempre. Che schifo che te buchi, proprio sempre. Ringraziamo e salutiamo Walter Sbenner. È stato un piacere, ragazzi, buon proseguimento di serata, ci ascoltiamo prossimamente. Ciao! Eravamo partiti, non sapevamo di che non ci andava. Ci andava, eravamo scarichi e poi alla fine siamo andati a cazzo e abbiamo parlato pure di argomenti interessanti. E ringraziamo e salutiamo anche Carmine Puccio Console. Ciao ragazzi, buon pone a tutti. Ciao Cicci, ci vediamo lunedì prossimo.